scala. È pieno di guerre che tu non puoi fare, ti puoi vedere effettivamente con il cuore. Vedremo, va. Chi viva vedrà. Prego, prego. Avate prego. Mia, buonasera nuovamente. Buonasera. Mi ascoltate? K. Con le orecchie o mi ascoltate bene? Sì, sì, bene, bene, bene. Sì, quando ti arrivo a te, quando, non adesso, quando sono con l'altro. Certo, se tu mi fai la domanda, la stai lì. E dove stai? Ah, quando mi arrivi, quando mi arrivo, non me la metto più io, va. Capito, non me ne ricordo. Poi adesso, in questo che sto provando adesso, è senza, tra tutte quelle lucette che si accendono senza lo smith, senza la lancetta, capito? Generalmente quando ti arrivo, alla luce come ti so cavata, erano 9:30. Adesso devo mettere l'antenna a 12 metri d'altezza, devo mettere. E poi mi ha detto anche l'antenna nuova. Tu cosa ne dici? Arriva tutto da sale 9:30, vanno qui sopra. Allora, uno che potrebbe far arrivare forte, avendo radio e avendo un'antenna buona sul tetto, in sante è solamente il vaschetto. Avendo una radio buona, anzi con una radio ma non tanto buona pure, avendo isolamento una buona antenna sopra la copertura e non è la parruzzura che la sopra la trava a tutti. Noni, che io sono a 426 metri sopra il livello del mare, io sono in un fosso adesso, però io dal fosso ne esco con 12 metri di paro. E quando esco dal fosso lo perdiamo lui. Ehi, aspetta un attimino che sto... Attimo una cosa, non è la mia questa bella, la stavo solo provando adesso qua in stazione. Se c'è qualcosa che va male ditemelo subito, se la tacete per sempre. No, hanno tacciuto per sempre. E tra le sciocchezze ti dantella il baracchino nella macchina e ripassi davanti, così ti filmano. E capo, mi sa che non le piace più, e che cosa stai facendo di male? Stai rubando? Se poi non la piace più, dimmi dove la butti, Nico, l'antenna che passo e me la piazzo io. Allora, Capridù, ricordati sempre una cosa, la gente avrà sempre da dire che fai bene o che fai male, quindi fai sempre come credi tu, di testa tua, non ascoltare ciò che dicono gli altri, non ti fare imbambocciare dagli altri. Solo gelosia, la gente parla solo per gelosia, Gianni Capridue, ascolta le parole di Giuseppe e di Doppio Rum, ascoltale bene però me, perché poi loro se ne ridono lo stesso alle tue spalle, anche se moduli o non moduli, fai quello che ti dice il tuo cuore.